Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Attesa la decisione del TAR in Lazio, ma il PD presenta nuovi ricorsi e in Parlamento è ostruzionismo. Napolitano, il paese crede nella Costituzione, poi il saluto alle donne, esigete il rispetto. Il coraggio degli iracheni, il racconto di chi ha votato sotto le bombe. 6-3 agli Oscar trionfa la Bigelow, premiato l'italiano Mauro Fiore per la fotografia di Avatar. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. In primo piano, lo avete sentito, ci sono ancora le ultime notizie sulla corsa alle prossime regionali. Riflettori accesi sul Lazio, dove il TAR è riunito, ma la situazione si complica ancora, mentre l'opposizione dà battaglia e parla nuovamente anche il capo dello Stato Napolitano. Cominciamo però dalle vicende laziali. Che succede, Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno, una situazione molto complessa, la decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio dovrebbe arrivare entro le 18, la seconda sezione bis del TAR, lo ricordiamo, è chiamata ad esprimersi sul ricorso elettorale del Popolo della Libertà contro l'esclusione della lista di Roma dalle prossime regionali. Si sono costituiti in giudizio il PD, il Partito Sinistra, Ecologia e Libertà, il Movimento Difesa del Cittadino e la lista Bonino-Pannella. In virtù intanto del contestato decreto varato da Palazzo Chigi, il Popolo della Libertà si è presentato in tribunale per presentare le relative liste del PDL per Roma e provincia. Il Partito Democratico tuttavia sempre questa mattina ha depositato un atto che diffida la commissione elettorale del Tribunale di Roma ad ammettere alla competizione le nuove liste del centrodestra. Di fatto, secondo i legali del partito di Bersani, la commissione elettorale ha già consumato il suo potere in tema di ammissione delle forze politiche alla sfida elettorale. L'attuale giunta del Lazio si è infine rivolta alla Consulta. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E anche la Regione Piemonte farà ricorso contro il decreto salva liste, ha annunciato la Presidente della Regione Mercedes Presso. Non possiamo accettare, ha detto, ingerenze del governo in una materia che in Piemonte è già regolamentata dalla legge regionale. Battaglia dell'opposizione intanto, come annunciato anche in Parlamento, Elisabetta Fiorito. Sì, il PD l'aveva annunciato, un cambio di strategia nei rapporti parlamentari, così dopo il decreto salva liste l'opposizione decide l'ostruzionismo in aula sul legittimo impedimento. Sono 1200 gli emendamenti presentati dal Partito Democratico al disegno di legge che arriva domani mattina all'esame del Senato. È il primo atto dopo l'annuncio la scorsa settimana di un cambiamento sensibile nell'atteggiamento parlamentare dei gruppi del Partito Democratico, fatto dal Presidente dei Senatori Anna Finocchiaro e da quello dei deputati Dario Franceschini. Sempre domani, dopo le questioni pregiudiziali, è quindi stata convocata l'assemblea dei senatori del PD, probabilmente per decidere l'ostruzionismo. Invariato invece il numero degli emendamenti dell'Italia dei Valori, l'UDC dichiara che si asterrà anche questa volta. Il provvedimento è una medicina amara, spiega Rocco Buttiglione, che non dovremmo propinare al Paese. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. E intanto in queste ore al Quirinale prima apparizione pubblica del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo le polemiche per la firma al decreto del governo. L'occasione è stata la cerimonia in occasione della festa delle donne oggi 8 marzo, ma non sono mancati gli accenni alle vicende in corso. È così, a seguire Napolitano c'era Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. È così, Napolitano non è intervenuto direttamente sulla vicenda del decreto legge sulle liste per le regionali, ma alcuni passaggi del suo discorso possono essere senz'altro riferiti alle polemiche, allo scontro politico di questi giorni. Al di là delle differenze politiche, ha detto il capo dello Stato, tutti gli italiani alla fine si riconoscono e credono nei valori della Costituzione, tra questi l'impegno civile, la solidarietà e il rispetto della legalità. Ma sentiamo la voce di Napolitano. Al di là di ogni differenza, di modi di pensare e di posizioni politiche, profonda è tra le italiane e gli italiani la condivisione di quel patrimonio di valori e principi che si racchiude nella Costituzione repubblicana, a coronamento di una lunga e travagliata esperienza storica. Napolitano ha poi puntato il dito contro il contesto degradato, la diffusa illegalità nel nostro paese, con un implicito riferimento agli attuali episodi di corruzione, un contesto che non favorisce la realizzazione morale e professionale dei giovani, e in questo contesto, ha detto Napolitano, essere giovani richiede coraggio, ma in una democrazia rispettabile per essere buoni cittadini non si dovrebbe esercitare nessun atto di coraggio. Infine Napolitano ha parlato, diciamo, del tema anche della festa, dicendo che le donne sono ingiustamente in una condizione di incompleta parità con un un richiamo alle forze politiche affinché riflettano su misure idonee per conciliare maternità, famiglia e lavoro. Infine, preoccupazione sulla disoccupazione, che deve rappresentare in questo momento una priorità per le classi dirigenti. Dal Quirinale tutta, voi la linea. Grazie, e avete sentito gli accenni alla Costituzione da parte del Capo dello Stato. A livello giuridico la situazione, come sentivamo, è molto complicata. Come dicevamo, mentre si attende la decisione del TAR del Lazio sul ricorso del PDL contro l'esclusione, il PD ha presentato una diffida alla Commissione elettorale invece del Tribunale di Roma ad ammettere alla competizione le liste che il PDL sta per consegnare. Insomma, che succederà? Pareri contrapposti arrivano dai costituzionalisti, noi ne abbiamo sentiti due. Per Marcello Clarice, ordinario di diritto amministrativo alla LIUIS, per il TAR sarebbe saggio un rinvio. Sentiamolo al microfono di Maria Luisa Pezzali. Dipenderà molto da quello che farà oggi il Tribunale quando i rappresentanti della lista del PDL si ripresentano a presentare la documentazione. Quindi è presumibile che oggi ci sarà qualche problema in sede amministrativa. Io ritengo che la cosa più prudente sarebbe richiedere un breve rinvio per capire quale sarà la posizione degli uffici nel corso della giornata. Perché potrebbe succedere che l'ufficio elettorale applichi il decreto legge, quindi sì, senza e più quindi bisogno di un pronunciamento del TAR. Sì, esatto. Cioè, se oggi l'ufficio elettorale ammette la lista in base al decreto legge, a questo punto non c'è più un interesse alla pronuncia del TAR. Se invece, nonostante il decreto, la lista non fosse ammessa, a questo punto tornerebbe di nuovo in gioco il TAR, è così? Esatto, cioè il PDL potrebbe presentare un nuovo ricorso, più tecnicamente integrare il ricorso già presentato, spiegando perché il nuovo diniego di ammissione è illegittimo. Diciamo che l'ufficio elettorale si troverà un po' tra l'incudine e il martello. E per Piero Alberto Capotosti, ex presidente della Corte Costituzionale, la vicenda finirà comunque davanti alla Consulta. Sentiamolo. Se le cose stanno così, è chiaro che l'ufficio elettorale deve prendere una decisione valutando gli elementi a favore e contro, sia da una parte sia dall'altra. Professore, un bel pasticcio. Questo sicuramente è un bel pasticcio, che probabilmente però finirà davanti alla Corte Costituzionale o attraverso questa strada oppure attraverso il ricorso diretto che, a quanto leggo sui giornali, la Giunta regionale del Lazio ha presentato proprio contro questo decreto, per un vizio che è abbastanza fondato a mio avviso, cioè questo decreto legge sarebbe entrato a disciplinare una materia che oramai, dopo il 2001, è di competenza regionale. Intanto, come dicevamo, entro le 18 arriverà la decisione del TAR del Lazio. Voltiamo pagina ora con un'altra vicenda. Interrogatorio in carcere a Regina Coeli per Balducci e Piscicelli nell'inchiesta per gli appalti per i grandi eventi. Come sta andando, Maria Chiara Grandis? Buongiorno, stanno uscendo in questi minuti dal carcere romano di Regina Coeli i legali di Angelo Balducci, l'ex presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici, detenuto qui nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze sui cosiddetti grandi eventi. Il suo interrogatorio dunque si è appena concluso. Si è svolto in un clima disteso e ci domandiamo perché sia ancora in carcere, appena dichiarato Franco Coppi, uno dei suoi legali, uno dei legali di Balducci, che venerdì, lo ricordiamo, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento di custodia cautelare in merito agli appalti per la costruzione della scuola Marescialli dei Carabinieri a Firenze. Il GIP di Roma, Valerio Savio, sta ancora ascoltando Francesco De Vito Piscicelli, arrestato venerdì sempre per reati legati agli appalti per la costruzione della caserma. Per entrambi l'accusa è di concorso in corruzione continuata e aggravata. Mercoledì è previsto poi anche l'interrogatorio del costruttore fiorentino Riccardo Fusi e nei prossimi giorni quello dell'avvocato romano Guido Cerruti. Intanto sul fronte perugino dell'inchiesta, da Perugia appunto arriva la notizia che i pubblici ministeri hanno dato parere negativo alle richieste di revoca della custodia cautelare in carcere per Diego Anemone, Mauro della Giovan Paola e anche per lo stesso Balducci. Ora si attende la decisione del giudice, che dovrebbe arrivare in giornata, ma l'inchiesta G8 potrebbe anche finire all'attenzione del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, nella parte che riguarda il coinvolgimento di uomini dei servizi segreti. Alcuni commissari infatti sono intenzionati a chiedere chiarimenti anche al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Per il momento da Regina Coeli è tutto, linea a voi. E a Milano nessuno dei testimoni citati dalle difese si è presentato oggi in aula al processo sui diritti TV di Mediaset, dove tra gli imputati c'è Silvio Berlusconi. I giudici hanno rinviato il processo al prossimo 12 aprile, ma l'avvocato Nicolò Ghedini ha fatto presente che per quella data il premier ha in programma un viaggio a Washington. Ora si sta decidendo un nuovo calendario. Andiamo oltreoceano per la notte degli Oscar, il momento è arrivato, così Barbara Streisand ha annunciato il premio per The Hurt Locker, per la prima volta una donna ha vinto l'Oscar alla miglior regia, trionfando contro Avatar. Well, the time has come. Catherine Bigelow! The time has come, dice Barbara Streisand. È arrivato il momento che una donna vinca l'Oscar come miglior regista e che porti a casa anche la statuetta per il miglior film. Catherine Bigelow con The Hurt Locker ha vinto la sfida con Avatar dell'ex marito James Cameron 6-3. And I just like to dedicate this to the women and men in the military who... La Bigelow ha dedicato i suoi premi a tutti gli uomini e le donne che portano un uniforme in ogni parte del mondo, non soltanto i soldati, ma anche i vigili del fuoco. E poi, nella notte degli Oscar, momenti di commozione. If I can take this moment to thank Helga Bee, for not letting me write in cards with boys. Sandra Bullock ha ricordato la madre Helga, scomparsa prematuramente 10 anni fa. Mom and Dad, yeah, look! Un ricordo ai genitori, entrambi attori, anche per Jeff Bridges, finalmente premiato per Crazy Heart. Migliori non protagonisti Monique per Precious e Christoph Waltz per l'unico Oscar a Inglourious Basterds di Quentin Tarantino. Sorpresa per il miglior film straniero, l'argentino e il segreto de sus ojos. Deluso, dicevamo, Avatar, solo 3 premi. Almeno uno dei 3 però è andato a un italiano, uno dei 2 premiati stanotte. Oltre a Michael Giacchino, miglior colonna sonora per Up, nato negli Stati Uniti, ma da un anno anche cittadino italiano, Marco Fiore, che ad Avatar ha regalato la miglior fotografia. Un gran saluto all'Italia, viva l'Italia, thank you. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E in Italia a tifare c'era il paese di Marzi, nel Cosentino. È andata bene per Fiore, che ha già detto che presto arriverà in Italia. Non abbiamo dubbi che ci saranno grandi festeggiamenti, ma lo chiediamo e lo salutiamo in diretta al sindaco di Marzi, Rodolfo Aiello. Buongiorno. Buongiorno, noi siamo orgogliosissimi di questo evento che ha stravolto un pochettino il nostro paese, che è un piccolo paese della Calabria, dove tutta la cittadinanza è emozionata e ha fatto una notte bianca in attesa di questo Oscar. E farete già una festa anche all'arrivo di Fiore? Sì, faremo a giugno, faremo quando verrà lui, perché abbiamo già concordato la sua venuta qui. Senta, peraltro lei lo conosce bene, giusto? Certo, è un ragazzo che... è più giovane di me, ma l'ho cresciuto, nel senso che è stato a giocare sempre con noi nel nostro paese. E da tutti i coetanei, viene tutti gli anni, alla famiglia qui presente a Marzi, quindi c'è un contatto continuo. Quando partì per l'America vi sareste aspettati un ritorno così? Non era nemmeno prevedibile, perché lui è partito veramente da zero. È stato un ottimo ragazzo, ha fatto un successo strepitoso, ritrovandosi veramente all'apice della carriera. E insomma, grande festa. Ed è una festa per tutto il paese, per tutta la circondaria. Siamo veramente orgogliosi. Grazie allora al sindaco di Marzi, Rodolfo Aiello. Voltiamo pagina, è ripreso oggi il lavoro negli stabilimenti Fiat, sentiamo. Dopo 2 settimane di cassa integrazione per 30.000 lavoratori del gruppo Fiat, si sono riaperti i cancelli degli stabilimenti di Mirafiori, Melfi, Termini Imerese, Cassino e Sevel Val di Sangro. Lo stop è invece prolungato di 1 settimana a Pomigliano, dove si fa cassa integrazione straordinaria, come è accaduto, ma su tempi più brevi, anche a Cassino. La ripresa dell'attività produttiva del gruppo torinese cade proprio nei giorni di maggiore vivacità del titolo in borsa, spinto al rialzo del 15% la scorsa settimana sull'onda delle voci su un possibile spin-off del settore auto dal resto delle attività. Il titolo Fiat resta positivo anche oggi, nonostante in un comunicato diffuso sabato la società abbia definito congetture le indiscrezioni su un possibile scorporo. L'azienda ha fatto sapere di essere impegnata nella preparazione del piano strategico 2010-2014, che sarà ufficializzato al termine del CDA del prossimo 21 aprile. Per il tormentone dello spin-off, come lo stesso amministratore delegato dell'ingotto Sergio Marchione lo ha definito a Ginevra, non ci sarà dunque, a quanto annunciato da Fiat, un CDA straordinario prima dell'assemblea degli azionisti del prossimo 26 marzo. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino. 13:19 minuti, torniamo in studio con i principali fatti di oggi. Il TAR del Lazio dovrebbe decidere entro le 18 sulla sospensiva per la lista del PDL, ma nel frattempo il PD ha presentato un nuovo ricorso, questa volta alla commissione elettorale. In Parlamento è iniziato l'ostruzionismo. Il Paese crede nella Costituzione, così intanto è intervenuto questa mattina il Presidente della Repubblica Napolitano. L'occasione è la festa delle donne al Quirinale. Esigete il rispetto, ha detto a queste ultime il Capo dello Stato. 6-3 agli Oscar il trionfo della Bigelow, la prima volta di una donna alla miglior regia. E come vi abbiamo anticipato, andiamo ora invece in Iraq. I primi risultati del voto di ieri dovrebbero arrivare giovedì, ma un dato già emerge: in una giornata costellata di attentati, gli iracheni ieri hanno scelto di recarsi in massa alle urne. Allora, il racconto di Roberto Bongiorni, che era a Baghdad. Sono venute le donne, molte, avvolte nei loro chador neri, con i bambini più piccoli in braccio e al seguito quelli più grandi. Sono venuti gli anziani, qualcuno reggendosi su un bastone, qualcun altro anche in sedia a rotelle. Sono arrivati gli uomini e i giovani. I seggi elettorali di Sadr City, il quartiere sciita più grande e degradato di Baghdad, sono affollati. È toccante vedere gli iracheni sottoporsi alle numerose perquisizioni, aspettare pazientemente il loro turno e alla fine mostrare orgogliosi il dito macchiato di inchiostro, segno del voto. Hanno rischiato la vita per venire a votare. Abdul Hassem Jahmoud, 72 anni, confessa che ha avuto paura. Ma sono venuto di mia volontà, sottolinea. Voglio votare per il bene dell'Iraq, scegliere l'uomo giusto che servirà la nostra gente. Inshallah, esclama. Speriamo davvero che tutto cambi per il meglio. Anche nel seggio di Adamiyah, roccaforte sunnita, dove a poche centinaia di metri è esplosa una bomba, la gente non ha disertato le urne. Numra è una casalinga di 29 anni. Inshallah, ripete, la sicurezza è la cosa di cui abbiamo più bisogno. Non abbiamo paura, siamo abbastanza coraggiosi per venire qua, anche se il voto potrà costarci la vita. Sami Mohamed Saleh, 66 anni, è un arzillo, funzionario del fantomatico ufficio per il turismo. This country not be safety very fast. It is need more time. Ci vorrà ancora molto tempo per riportare la sicurezza precisa. I soldati americani non devono andare via nel 2011. After 4 or 5 years. Devono restare ancora 4 o 5 anni. Ala Talib Mahmoud, 33 anni, è una graziosa insegnante elementare. Dice che tra la gente comune le divisioni etniche o confessionali non contano più. Le domandiamo: e se fosse lei il nuovo primo ministro dell'Iraq, che farebbe? Quello che non stanno facendo i politici, risponde. Innanzitutto la sicurezza, poi migliorare i servizi e abbattere l'altissima disoccupazione. È la vera ricetta contro l'estremismo, conclude. Inshallah. Roberto Bongiorni, GR24, Il Sole 24 Ore, Baghdad. E sarebbe di 500 morti il bilancio di scontri interreligiosi nel nord della Nigeria, soprattutto donne e bambini, in stato d'allerta l'esercito. In gennaio altre 500 persone furono massacrate negli scontri etnico-religiosi di Jos, nello stato di Plateau, crocevia obbligato tra il nord, a maggioranza musulmana, e il sud cristiano. Meno di 2 mesi dopo è accaduto di nuovo, nonostante il coprifuoco notturno ed i controlli. A colpire questa volta sono probabilmente stati pastori nomadi di etnia Fulani e religione musulmana, fomentati da gruppi integralisti islamici infiltrati nella regione. A colpi di fucile e macete hanno trucidato centinaia di contadini cristiani di etnia Berom. Nel paese più popoloso dell'Africa, il presidente è fuori scena da mesi per malattia e tutto in mano al suo vice, Goodluck Jonathan, che ha deciso di mettere in stato d'allerta l'esercito nello stato di Plateau e in quelli confinanti per evitare l'estendersi degli scontri. La situazione è potenzialmente esplosiva, ma non tale da conquistare matematicamente l'apertura dei notiziari. La radio di Stato nigeriana stamattina ha preferito dilungarsi sul controllo dei contratti per la trasformazione del petrolio del delta del Niger. I 500 morti dopo. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Almeno 57 le vittime invece secondo l'ultimo bilancio del violento sisma che all'alba ha colpito una vasta zona della Turchia centro-orientale. E dopo la forte scossa di 6 gradi della scala Richter avvertita alle 4.32 locali, le 3.32 in Italia, si sono succedute altre 30 scosse. L'Europa si è già detta pronta ad inviare aiuti. Integrazione difficile. Sentite cosa è successo in Liguria. Per giocare a calcetto tra amici, il gruppo di immigrati, composto da curdi e turchi in regola con il permesso di soggiorno, aveva scelto il campo sbagliato nel quartiere di Funtanin, sull'altura di Ventimiglia. Qualcuno infatti ha interpretato quella partita come un'invasione di territorio ed è scattata la spedizione punitiva. I vendicatori, tutti italiani, si sono presentati armati di spranghe e mazze da baseball. Urla, fuggi fuggi, sangue, feriti. Per terra sono rimasti 5 immigrati. Soccorsi dal 118 sono stati trasportati all'ospedale, fratture al volto, traumi articolari, prognosi tra i 20 e i 30 giorni. La feroce aggressione è avvenuta davanti a decine di persone terrorizzate da tanta violenza. Le indagini dei carabinieri si sono subito indirizzate verso un gruppo di pregiudicati residenti nella città di confine. 4 di loro, tra i 23 e i 36 anni, sono stati arrestati nella notte. Andrea Ferro, GR24 Sole 24 Ore, Genova. Il graffio di Dario Ceccarelli. Per l'8 marzo un ringraziamento particolare all'ex fidanzata di Adriano, che ha fatto quello che a suo tempo avrebbe dovuto fare Massimo Moratti, prenderlo a sassate. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. E con questo chiudiamo l'edizione delle 13 di oggi di GR24, Pietro Lacorte in regia, ancora un saluto da Anna Migliorati, vi lascio a Italia in controluce, GR24 torna come sempre alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.